Chi è avanti? Chi è questo Bippi? Facendo aderire le particelle di vernice asciutta con una carica elettrostatica. Una tecnica. Chi è? Chi è? Lugariello, tu sì. Come è andata lì? Mi work in progress, Cosa è successo? Work in progress. Stava agendo, sì. A ti piace il tuo bip? A Togo, sì. Vedi. Sei felice? Ti piace? Troppo dopo, Beh, ha molte funzioni, no? Cavolo, quello è... Anche il Polmar c'ha un sacco di funzioni lo stesso. Sì, ma non vuoi per il Subaru. Poi lo puoi fare cavagata. Difficoltà, In tutte le maniere ho provato, col essere, ho trovato tutto, perché c'aveva la figlia là rovescio questo, no? E allora io ho messo come mi hanno detto, però non vedo corri di cito. E tu provate a dormire a casa, che deve arrivare il corriere, capito? Che deve portare la roba. Non ti ne è arrivato, no? Come? Non ti ne è arrivato di chissà cosa. Di che cosa? Quello che deve arrivare. No, no, ho fatto un ordine, la macchinetta per tagliare i capi mi sono ordinato, e un'antenna. E' bella sta lì. Che altro segnale? Catta! Natali, e beh! Hola, hola, hola! Piazzatola! Guarda come sta uscendo! Cazzo, Q 440 a Bari! Agi un attimo! Cosa? Aspetta un attimo che lo devo salvare! Luca! Ehi, però abbassa un po' Natalia, abbassa, abbassa l'amplificazione, ti porti un po' di roba appresso. Guarda, adesso è a 1. La signora radio Natalia, bella, cavolo, ma bella veramente. Allora lo lascio a 1 così. Cazzo, qui alla prima mi sono corri di scita, va. Cazzo, guarda, veramente sembra come un Kingwood, veramente, la signora radio. Ehi, va bene. Adesso lo isolo e lo chiudo, va. Cazzo, complimenti, veramente una bella radio, bella, bella, bella, cavolo. Oh, mi sai, ci sto pensando, mi sa che lo compro pure io. Adesso vediamo, guarda, perché è bella come radio, mi piace un bel. Lo so, Tino piglia per il sedere a coso, come si chiama, a Claudio. Perché gli dice che con col K invece noi con questo. Ma che non sto scherzando, sei con il K Natali, veramente. Non ti giuro di senti tanto battitivo, esci un bel forte. Aspetta che lo chiudo. Ma l'MB più 4 li ha attaccato. E quello vecchio. Ascolta, non è che mi mandi. Mi fa la foto e mi mandi la modifica. E K, gli faccio la foto al circuito. Bisognerebbe aprirlo e. No, ma mi sembra che ce l'ho. Che ce l'ho sul computer. Sono due resistenze, a quello nuovo gliel'ho fatta più potente pure. Vabbè, aspetta un attimo, dai, lo chiudo, se no non ne cavo un bene. Vai. Buongiorno, buongiorno. Ebbene, buongiorno a lì. Ciao Luca, il bruco è diventato farfalla. Perché? No, è una metafora, ho sentito Natalino adesso, grazie a mia radio. Ah, vero, confermi, adesso forte veramente. Ah, ci faccio un pensiero pure io. Bene, bene, bene, bene. No, ho fatto la metafora, no, dai, del bruco che diventa farfalla, no? La trasformazione dal polmar a ghiscio, proprio un abisso. Adesso chiede info, aspetta, allora, versione, questa qua è il V6, bello. Bene, mera, bene, mera. Oh, di buona lena, si è stato presto a smanettare, ragazzi. Lubrofe. Ciao Natalino, buongiorno. Mi sono permesso di fare una metafora. Ho detto la trasformazione da bruco a farfalla. Giata gentile, era prima, bisogna curare tutti i disegni, lo schema era sbagliato. Chi su chi mira disegni Marco e cosa. Ho fatto come facevo sempre io, era prima che manzano, bisogna curare di scito. Cazza. Allora, noi siamo cominciando in tutta, va. Ho chiuso lo spinotto, tutto. Almeno questo è quello vecchio a me, quello che non serviva la capsula. Che studia non serviva. Ha bisogno mio di dire che pari come intero game food, gatta. Confermi o. Oh già. Sì Natali, ti ascolto veramente bene, hai fatto veramente, sei passato da notte al giorno, cioè adesso è bella, bella seria, dai, va benissimo, confermo. Non sai quanto mi faccia piacere, quante fatiche ho fatto per fare questo qui. Immagino. immagino, no, no, veramente, dai, bella forte, spinge, non è distorta, bella, bella piena, amico, questi sì, sì. E infatti, è pittina, e sono lontano mi dal microfono, ed è a uno, mi pare, o a due. Bene, bene, bene, bene. Ehi, ehi, vediamo se c'è Luca, Luca, avanti. Aspetta, la quella è un po' di stagno dalla terra che mi sono saldato un coso, una schedina, diciamo, dei pezzi, ne raccolgo i residui. Comunque, con la spina stagno e tolgo, all'inizio non mi stava funzionando bene. E di quelli da 12 euro, ma funziona che è una bellezza, 30 watt, no, veramente una canonata. Hola, hola, e sono a minimo, mi 3 watt sta dando, non di più. Ma Natalì, hai fatto regolabili quell'apparecchio? È tutto regolabile dal menu, perché è digitale, è un po' difficilotto, neanche il mic-in non puoi regolare, capito? Non puoi regolare manco il mic-in perché ce l'ha nel menu, e io l'ho regolato dal menu infatti. Il bip c'ha un sacco di cose, come il Colt l'ho fatto. Bene meda, bene meda. No, no, è veramente, veramente un grande passo avanti, dai. Guarda, ti piace il bip? Sì, va bene, va bene, va bene, bello corto. Sicuramente molto più corto di quello che c'ho io, aspetta, mi rivolgo. Ehi, è tipo Colt questo. Sì, si sente, si sente. Che regga. Quindi mi confermi che è un bel potente la radio. Va benissimo, Natalì. Per quanto mi riguarda, io sono molto, tra virgolette, in questi casi sono molto ingiriato, passano il termine. Mi piace, dai. Cara gaba, anda bene in meda, come dicono in campidano. Adesso sentiamo il risposto, del resto della ciurma, vediamo un po' cosa, come si esprimono. E poi voglio vedere Marco come mi prende per il sedere. Che il suo fischia tutto molto male. Marco chi? Marcolino Condo. Ah, vabbè. Ognuno poi smanetta a suo gusto. E poi questo è modificato, adesso mando la fotografia a coso, a Luca, della modifica. E ci vedo, dovrei averla qua. Adesso la controllo e così gliela mando. Quella che ho fatto allora, documenti. Aspetta un attimo che la cerco. Eccola qua. Adesso gli faccio la foto e gliela mando. Lugarie. Ora dai. Mi che te l'ho mandata, amico. Quelle due resistenze sono. Tanto già sono segnate. In basso. Ah, ok. Saluti da Concetta. Sì, grazie. Natale, ma si vede sfocata la foto, non si vede bene. E rivedimi un di solo i resistenti, è così la fotografia, da dove l'ho presa io. Tu dove vedi che non ci sono i due punti, in basso lì li fai, con due pezzi di filo. Molto ci vuole. No, non la capisco questa foto, ma quanti sono? Tre? No, c'è scritto una scritta come effettuare la modifica, quella in verticale. Sono quelle due orizzontali, una affiancata all'altra. Capito? Se no tocca aprire il microfono mio e fatela vedere. Quanto ti arrivo di segnale già? Gianni Rubroffetta. Aspetta che mi sto sistemando il lettino. Cara, volevo sapere quando ti arrivavo di segnale. Vabbè, quando sei a posto chiama. Tutti i sistemi lettino, mi pulisco la camera. Io devo fare il sugo, devo fare il ragù. Ah, vai per vantare, ma io posso buon affido, Vai, fatti tu un rischio, tu sei guacquomane. Faccio buono veramente. Ma tu ce lo metti lo zucchero in mezzo. E se no il tiramisù non mi viene bene, non ne avevo mai fatto in vita mia di tiramisù. Adesso lo sa fare anche mia moglie. Ah, una cazzata, Paolo, tiramisù. A me piace molto la zuppa inglese. analizzo. E cosa avevo? So con un trucco per fare a crema in 5 minuti. Certo che ve ne bombe. Ma io sono di professione, ha capito? Io le so fare tutte perché sono di professione. Quindi. Ore, come ti sto arrivando di radio? 9:10 e radio 5, perfetto. Caffa, aspetta un attimo. Guarda se varia il segnale così. 9:20 il segnale. Guarda, adesso 1, 2, 3, 4. Sempre 9:20. Non ce la fa aumentare, siamo troppo vicini, da. Vabbè. Anda bene Meda. Adesso si è calato 9:10. Ehi, così deve essere. Meglio così. Anda bene. Salutami a Luca e agli altri che ci sono nella ruota, ok? Che io sto facendomi scendermi il filo di massa fuori. Il filo di massa dell'antenna? No, un filo di massa fuori sto facendo scendere perché c'ho un filo dell'antenna che mi tende la cosa, quindi devo scaricare l'energia che c'ha quel filo. Gira gira, me la faccio pure io la massa. Che così almeno l'energia statica mi si raggavo. E quello è poco ma sicuro, gira gira me la faccio anch'io. Ho già trovato il modo e tutto come metterla. E io l'avevo già predisposto, mi basta attaccare un filo che stiamo andando, di quelli grossi. Già ce l'ho. E a me invece mi se ne vuole più di 15 metri. E a chi tu ti rosi vendeva raggio su Yaruzogu? Invece non avevi raggio predisposto già. È già collegata, a chi da massa non che raggio fatta io. Vabbè se ce l'hai già. Se non fa una scena l'avrei portato su alla scatola, il filo, e me l'avrei preso dall'appartamento. E infatti è sempre meglio collegarli a massa. Cazzo c'è il vogo dall'antenna della televisione, infatti si è bruciata questa televisione. In occhio non finiva. L'ho rifatto tutto io qua. No, io già ce l'ho, ma ce l'ho su nella scatola. Giù non c'è in questa presa. Cappa. Adesso la faccio. Tanto devo collegare fuori. Luca, vieni tu a mangiare gelato. Stanno si tratta di gelato, gli atti molla domani. Sì. C'è un cuoco, ma ne quel Luca Pugioni. Adesso gli faccio squillare il telefono. Gianni, finito hai di fare il letto? Senti, mi sono con Gianbellini Rizzoli. E fra un po' come dice Gianbellini Mudalli, buh. Gianni, ogni volta, ogni gatto di Gianbellini Rizzoli. Tutti spariti, gà. Aspetta, chiamando l'Inps, Natali. Caffa. Gianni, finito hai? Eccomi, dimmi Natali. Guarda a vedere il segnale quanto ti arrivo, che poi vediamo un po'. Vieni avanti. Guarda, 1, 2, 3, prova. Guarda, arrivi... Questo, vabbè, questo Smith è un po' arrivato giù, diciamo che è un po' tirchio. Comunque, approssimativamente intorno ai 9:20, dai. Guarda, adesso ho cambiato qualcosa. Sì, leggermente di più. Ha aumentato appena appena. Perché siamo troppo vicini, vabbè. Così va bene. I watt stai regolando? 3 watt, dai. Più di così non dà. Bene. Va benissimo. Ma ascolta, in pratica questa radio è uguale a quella che c'ha Tino, così è? Solo che la sua è ha un'altra marca, però è uguale come radio. Molte volte, me l'ha detto anche Claudio, molte volte dice mi prende per il sedere, io credo che lui stia modulando con una invece con quella lì e mi frega, ha detto. A chi tastiera mattesi in modulazione, di passi. Io adesso non mi sento e non posso giudicare, ma dice che è un bel forte. Anche Luca me l'ha detto. Va bene, va bene. Te l'ho detto e confermo. Va benissimo. Bella, pastosa, piena, comprensibile, chiara. E niente, va benissimo, dai. E ce l'ho basso il microfono, perché me l'hai fatto abbassare tu, perché sennò era... Cioè, si sente tutto, da anche da lontano. E allora l'ho abbassato per quello. No, infatti proprio va bene, nel senso che è chiara proprio perché non si porta rumori, altri rumori appresso, ho capito? Poi se uno spingere chiaramente da gas. Però già così è bella piena, ok? E in banda laterale deve essere una favola. Te lo ricordi che Marco mi ha detto domani ti prendo per il sedere, perché stamattina alla prima sono riuscito a agganciarlo, perché era sbagliato lo schema che mi davano loro, capito? Ecco perché non riuscivo a metterla, perché cazzo, i microfoni era giù sempre attaccati in 5 minuti, quindi l'ho detto, era solo il bongo. Molte volte chi fa la seffa per tre, dai. Infatti, poi prendi un puntale per sapere se mette portante o cosa. Prendi il puntale della testa, glielo punti a uno e all'altro e ti dà il contatto, no? Molto ci vuole. Dai, facciamo una prova in USB. Uniform, Sierra Brava, io. Scatola, dimmi tu. Eia, sì, vabbè, adesso la cosa carina sarebbe sentire Marcolino e Tino modulare tutti e tre insieme, vedere, per riuscire a cogliere le sfumature, capito? Ma giusto senza nessuna pretesa, cioè, parlo da parte mia, sarei curioso di sentire le tre radio in frequenza tutte e tre assieme, dai. Sì, ma sto dicendo a Marco, Tino non lo so quando lo potremo sentire, perché adesso sta lavorando e quindi non si sa quando entra. Già capiterà l'occasione, dai, prima o poi. Giusto così, per curiosità, a vedere proprio cosa dice l'orecchio. Perché quella di Tino è come quella, è marcata come quella di Marco. Sì, sì, sì. Infatti l'altra volta gli stavo dando una mano per mettere a posto il settaggio, credo. Peccato che non c'ho il tuo numero, se no gli facevo la foto e te la mandavo su WhatsApp. Guarda, dovrebbe avercelo Luca, il mio contatto. Se ce l'ha Luca allora abbiamo risolto. Dovrebbe essere all'ascolto, che stava parlando con l'INPS, mi sembra, poco fa. Vabbè, già glielo dico io di passarmelo così. Non c'è problema. È veramente bella, che non puoi dimissi come ti pulimo, se no ti avevo fatto vignette, l'avevo fatta vedere. Già, sei come quella, sei praticamente il clone di quella che c'è Marcolino, già la conosco quella radio, mi ha mandato le foto, dai. Sarà uguale, penso, io quella di Marcolino non l'ho vista, e dice che è marcata Intec, che è la sua, e quella di Tino è uguale. Però dovrebbe essere uguale anche questa, perché i menu per me li ha detti Marco a me, i menu per modulare, per aggiustare il coso, il VIP, il Mackey Gain, perché è tutto dal menu quello che si fa, capito? Certo, certo, allora è quella, sì, la conosco. Aspetta che deve essere mia moglie. Era la 50. Olè, si sente. Già, lo telefoniamo a Marcolino, lo facciamo entrare a vedere. Sarà nel mondo dei sogni, Natalino. Magari ieri notte ha fatto le ore piccole. Ciao Gianni. Più forte della mia la voce. Più o meno, buongiorno signora. Buongiorno anche a lei. Tutto bene, sì? Sì, tutto bene. Mezzo orgai, bella voce squillante, bella pimpante, bella Natalia. Ma è vero che può fare cosa? Ma Kurt, vero? Kurt è nel divano seduto. Altro che può fare? Kurt, si è girato per... stavano parlando di lui. Io Luca, mi quel mone lo vola basta. Non so. Con lui. Oh. Passami il contatto di Gianni, che gli devo mandare una foto, io non ce l'ho il numero suo. Ah sì? Oh, Natalino! Io sono nel sito dell'INPS per mamma, no? E qua mi chiede il numero di protocollo, l'ho messo, questo numero, richiesta, linea INPS, cos'è? Non lo so io queste cose. Luca! Ciao, dimmi. Ma il numero ti hanno dato dell'INPS? No, ho chiamato, poi ho detto di entrare qua e di fare la richiesta. Capito? Ti devi fare richiesta del numero del PIN. Con quello lì entri, di cosa vuoi cercare? Ah, il numero PIN, ciao, aspetta. No, non è quello. Guarda che c'è, richiesta numero PIN. E dove è scritto? Nel sito dell'INPS. No, qua mi chiede il numero, richiesta, linea INPS. Sono già dentro io con il PIN, capito? Ah, se sei già dentro, allora devi richiedere... Cos'è che devi richiedere? Il modulo per le 600 euro? No. Sono soldi che devo dare a mamma, tu. Capito? Sta aspettando da più di un anno. Allora devi entrare... nel coso delle, aspetta come si chiama che non ammento, nella procedura del coso delle, ma Papannapoli, nel coso suo di tua madre devi entrare, no, nel cognome codice fiscale, la madre deve entrare in quello della madre, non nel suo, capito? E perché la domanda di mamma tua chissà chi ha fatto e in che stato è, ti diranno. Devi mettere nome, cognome e numero di codice fiscale. Ho detto, sono già dentro, devo fare la richiesta per farmi contattare per quanto riguarda questi soldi che aspettano la mamma, capito? Ma non so dove sia questo numero di richiesta. Mi sa che quello sarà un po' difficile averlo, contattare l'unica cosa è salire su all'Infis e farti la fila. Comunque la modifica è gratis per quella radio, Natalì. Che modifica? La radio che c'è, tu ci si pagava 20 euro, la paghi a prezzo che costa, la modifica gratis. Marcolino c'ha il cavo, si può è il programma per programmarla addirittura. Comunque la mia è già fatta, le modifiche che c'erano da farle gliele ho fatte e non c'è problema, perché si regola tutto dal menu qua, non è tanto facile. Hai trovato il numero di Gianni, va, controlla. Cosa? Che te l'ho mandato il numero di Gianni, controlla. E sta bien. Già, te l'ho mandata. Sì, ho aperto WhatsApp sul computer adesso, ho visto. Ho visto l'icona della foto del cagnolino, adesso lo apro. Sì, l'ho vista, una centrale LN c'hai attaccata. Cosa già? Ho detto che c'era una centrale LN attaccata. E beh. Sì, c'è quella lì, sì, la. Guarda quella che c'ha Marcolino, dai. Ed è tutta illuminata di notte, non è solo il display, no? Anche quei comandi lì sono tutti illuminati. Sì, di notte. Di notte è bella da vedere, dai. Cava cava. E vi lusso veramente. Sono contento. Ma è quella radiolina che si vede sotto, cos'è? Il Polmar? Eia! Ah, ok. Bene meta. E adesso è a riposo, dai. E beh, e te credo. Credo, adesso non ti voglio dire cazzate, adesso non so se Marco ha, quella di Marco ha il display rosso così o ce l'ha azzurro, boh, allora me la metti. No, non lo so, io non l'ho vista quella di Marco. Comunque a me piace questo il display. Adesso mi tocca, vabbè, vedere le foto che mi aveva mandato Marco, ma non ce le ho qua per confrontarle. Certo che sei blu e feami, non mi piace blu. De gustibus. De gustibus. Forse magari il blu la notte, cioè, con le luci basse risulta più riposante. Boh, non lo so, questione di gusti. Ah, boh, non lo so, io a me piace questo colore qua. È molto visibile, bello, ma hanno voi. Adesso praticamente è partito il contagio di chi c'ha radio, allora si recupera già quello Luca, così è lui, si sta tuffando con l'Inps, dai. Infatti. Adesso si rientra a Domarca a vedere se mi prende per il sedere, come ha detto lui. Allora, perché pensava che non ci riuscivo. Era prima che mangiano mi. L'ha già visto? E allora? No, e poi lo schema che mi avevano dato. Il cellulare. Con c'è, lo schema che mi avevano dato loro era sbagliato. Ecco perché non riusciva a metterlo. Aspetta che sto guardando se riesco a vedere le foto che mi ha mandato Marco. No, forse. no, forse me la va. Questo, no, sono su un Telegram, cazzo. Sto facendo un po' di confusione, vabbè. Che ragazza. Cata, c'ho la macchina fotografica che se ne sta ridendo. Che non posso andare a Lubuga. Aspetta che ti mando la foto della mia radiolina, va. Che beh, che beh. Questo è bellissimo. Non bello, no? Arrivata? Sì. Allora, quello mi è sempre piaciuto. È tipo il samurai, solo che è cromato, capito? Un 3009, quello, dati che sì. Sì, sì, è un classico. Sì, sì, come piacciono a me, dai. Con l'M95. M95 abbinato, va bene. Funziona bene, dai. Scappa. Natalino. Ehi, non devi toccare altro, no. Quello lì è blu. Io ti sto dicendo. Luca sta ancora smanettando. Giaffarendi Olimps, Luca ci sei? Luca Giaffarendi Voci. Questa radio è di Marco, Natali. Sì. Cos'è? Dico che questa radio era di Marco. Lo so, mi ha detto tutto. Benemera. Mentre quello che c'è sopra è un omaggio di Sparviero. Cara gara. Io ce l'ho uno piccolino, no? Di quei rossetti. Però non attacco a che manista, non faccio a fa niente. E quindi niente posso ciappà. Quando vengono se lo controllano. Poi c'è il CIE. E guardano a vedere se disturbo, che non disturbo, assolutamente. Perché manco la televisione mia disturbo, che è sopra l'antenna di quello che disturbo. Quindi chi due va l'antenna avrà. Allora. Ci avrà una piccapane di chi si ferro a posto dell'antenna. Ma cosa ne so io? Io guarda, no! Quando sono venuto, no! Conce, non rompere le scatole. Ma adesso di andare, sto parlando, vai. Si sente che c'hai il microfono preficcato, Lullo di Tardo. Zero grido, Lullo di Tardo mi ha fatto. Faccio padre che lo faccio là. E vai. Vedi, dimmi, mi sto prendendo. Ehi. È che c'ho il telefonino che non ha lo zoom, sennò avrei provato a fare una foto della visuale che ho dalla finestra per farti vedere cosa vedo, se riesco a vedere la tua antenna, è che mi viene male, non c'ha lo zoom. Io c'ho tutto, se ne sta ridendo, anche il grandangolo c'ho. Presente ce l'hai quella chiesa di Servi di Maria, da vicino mi, tutta ravacciata giù va, con un grandangolo. Immagino. E che c'ho la telecamera, quella professionale, non ne ho voglia di farla da... non ne ho voglia di farla dalla custodia, che devo mettere il cavalletto, che darcelo, se no con quella già imbatte, dai. Beh, te credo. No, io ho una fotocamera della Canon. C'ho il teleobiettivo 70-300, poi c'ho l'obiettivo normale e il grandangolo. Che canone è? Me lo dici il modello? La 1300D. Non la conosco. Non la conosco, vabbè, io sono più orientato sul video, dai. Non la conosco, magari se la vedo riesco a farmi un'idea. È una reflex digitale. Già è bella. Anche io ero invece orientato sulle foto, però ho imparato anche a fare video con quella. Capito? Bruno Luca l'ha detto, mi ha insegnato un amico a fare video, poi sono diventato più bravo di lui. E poi era iroso. Ehi, guarda, ti ho mandato la foto della videocamera, Natali. Così ti fai un'idea della bestiolina. C'è una cosa professionale, giustamente. Te credo, questa non è scherza. Vabbè, non è. Non è l'ultimo sicchio, però già fa ancora il suo dovere, dai. Beh, te credo. E poi lei non fa nulla senza l'operatore, ci vuole l'operatore dietro. Certo, certo. E adesso è un po' ferma, ogni tanto la levo, l'accendo, l'ho levata da poco, è stata una bella spolverata. Ogni tanto la metto in moto, la faccio girare. E cappa. E quindi tu lavoravi in televisione così? Ho lavorato 18 anni buoni a TeleG, dai. Dal 92 sino alla... fatti i conti, sono andato via nel 2010. Gabba. Avanti il brecco, buongiorno. Ho sentito basso questo break, però la colpa è mia, adesso non entra più. Basso, Santiago 3-4. Santiago 3-4, proprio basso. Avanti il brecco. Davvero? Davvero sei Luca? Sì, allora. Scatti cosi ogni volta mi tocca a fare, uff. Oh, è la giugana. Adesso, vabbè, non lo posso prendere per il sedere perché lo sa che non è a Claudio Buffrini. Tino ci riesce a fregarlo. Perché Claudio è con cuomo, vedi, come Claudio non si offende quando lì c'ha le antenne di plastica. A che usai sto buffone? Io continuo a ribadire che è con cuomo. Adesso me ne salgo con questo in campagna e mi faccio i DX. Te li immagini che in campagna c'ho la Mantova 5 nuova sopra un palo di 12 metri che se ne sta ridendo. Lì già li facevo i DX. Grazie a me, hai fatto un affarone, là, fratta lì. Ma vi non di la buffunendi, no, Luca? Hai fatto un affarone, a me un guisarradio, tu. Ma un affarone, proprio. Infatti. Vabbè. Cazzo, non guarda, non ne potevo più con quell'altra. Natalia, ma non c'avevi un Lincoln messo da parte? L'ho dato per pezzi a Antonio. L'ho dato quello e l'altro, quello 120 canali che quando ascoltavi usciva quel fischio. E lo dovevi mettere fuori frequenza, insomma, lo usavamo sul Sivari, su Parigi. Però il Lincoln non c'aveva né cavo di alimentazione, non aveva il microfono, che c'ha l'attacco con tre fili come questo, perché c'ha la ricezione. E un macello. Vabbè, è dirigibili e si lavora a pugni a pulsi. Cosa adesso? Vedrai che già ci smanetta. Lo rimette in funzione, dai, lo rimette a correre. Sì, lo credo bene, e se non ci riesce Antonio chi ci deve riuscire? Ma giù un preso. E poi non ha niente, devi mettere il microfono a Lincoln e il cavo di alimentazione. Savi buono a farlo, Antonio. L'altro è che non so cosa ha. Infatti per quello sono due fesserie, dai. Non è niente di complicato. L'ho provato quello là, non il Lincoln, l'altro ce l'aveva il suo microfono originale, ha già attaccato i CRE, solo che aveva quel difetto di quel fischio in ricezione. Guarda, ti ho mandato la foto della vista che c'ho dalla finestra, l'ho fatta in direzione della tua antenna. E cavagava. Sono già le 11:15, sono, bobo. Chi è? Mi metto a fare il ragù. Io mi sono cucciato, sto fumando, mi bongo i botti, mi bitti giù, i simboghi belli mi sono rimasti e vado a fare le commissioni. Ma le mutande già te le hai messe già. Non è uso mutande, neanche chiuso la lampo. Ah, ma sei già pronto, usi. Ah, c'è la capafura. Nuda vai. Io mi sposto un attimo. Gabba, dai, anche io mi sposto che vado a fare quello che devo fare, sennò è un macello, no? Che oggi non si mangia. Natalino. Natalino. Chi è avanti? Ma che io sono Natalino. Ciao Natalino. Ma stai fischiando. Giù. Ah, adesso lo fischiando sto. Forse perché c'era un altro baracchino acceso. No, però ci sente un'alternata. Sì, vabbè, quello è l'alimentatore. È il fisso dell'alimentatore, vabbè. Aspetta, è che tengo questo, ecco. Forse adesso si sente di meno. È un'avventura, si intende. Come sto uscendo di radio giù? Che sono riuscito a mettere l'MB più 4 stamattina presto, la prima vera giuvata. Perfetto, è perfettissimo, una bella radio. Tanto il segnale mi sta segnando 7 solamente, e dovrebbe essere 9, mi si è cercato 49. È l'alternata, Giulio. Abbi pazienza, guarda a vedere. Adesso sì, adesso c'è il 9, così c'è il 9. Giulio, è l'alternata. Non so cosa dirti, adesso controllo. Ciao Luca. Buongiorno Giulio. Prendete. Eia, vabbè là, mi sposto che devo andare a fare il ragù, cappagala. Prova. Luca? Sì, c'è sempre l'alternata. Si sente forte? Sì, si sente abbastanza. Aspetta che abbasso. Forse là. Sarà questo, cosa mi so. C'è ancora? Meno, ma c'è. Ah, io ho capito. Vabbè, dai Luca, cerco di rimediare. Dai, sentiamo più tardi che io sto uscendo, a dopo. Ciao, ciao a tutti. Ok, ciao, ciao, ciao. Natalino. Dimmi giù. Ancora c'è l'alternata? No, negativo. Ok. Era l'interruttore del microfono sotto dell'MC. L'ho dovuto muovere, si vede che l'ha messo male, forse si era spostato, adesso mi sto anche ascoltando, sembra che va bene così. Mi hai copiato? Aspetta lì. Giù, a me stavi chiamando che ero in cucina. Appunto, no, ti stavo chiedendo se c'era ancora l'alternata, solo quello, perché era l'interruttore che c'è sotto nel microfono, che l'ha messo male. No, adesso va benissimo, è perfetto. Lascia tutto com'è, mettici l'attac, così non lo tocchi più. È un rivetto gli metto, adesso ho preso la macchinetta dei rivetti e gli metto un rivetto. Stavo dicendo, Natali, cos'hai cambiato? Il baracchino è cambiato? No, sempre il melegatto. Già ci sentiamo. Ok, ciao Natalia, comunque c'è benissimo il radio, va benissimo, ciao ciao. Ciao che vado in cucina, ciao, alle prossime. Ciao Natalino! Beh, c'è nessuno? E chi è te? Natali, ci sei? Sì, già sono qua, te l'ho detto che ero qua. Ciao, il corriere praticamente dice che c'è via Gorciano e Ilka, cioè casa mia. E c'è un'altra parte, dice se la consegniamo domani, non la consegnate oggi o domani. Gli hanno messo... Natalino! È staccato, cosa ti devono consegnare, Lucrezia? Un coso, Natale Giuseppe. Oh, signor. Aspetta, poi mi deve arrivare la macchinetta a tagliare capelli. Io l'ho pagata un sacco di soldi, gatta, me l'ho comprata a Sassa. Aspetta un attimo, Natale, che guardo fuori, c'è il postino. Stava di gatti oggi, Cosa sta facendo? Sì, no, ma che? Sono indeciso, Natale. Parlane con Marco, così ti dice qual è il migliore. Questo è digitale, invece il 3009 prenditi, se devi prendere il 3009 bigliaghi di un modello vecchio, che sono meglio. Fanno delle belve anche i 3009, mi usate grigi. Sto comprando anche la macchinetta per tosare il cane. Cosa Luca, non ho copiato che c'è Gianni che ti ha soprammodulato. Dove è Gianni? Su Messenger. È diventata la baracchina, cosa su Messenger? No, che sta facendo cosa sta facendo? Se no sarebbe entrato. C'è uno che ha detto bau bau. Ma chi è? Antonio? Ma chi è? Micio. Boh, sono indeciso tanto se acquistarla una radio. Comunque me la spedisco anche già modificata. 180. Sì. 189 spedita. S6009 Superstar. Come lei, che com'è? Come già mi dici altro? Buona come radio, prende i colpi, come? Non lo so, dimmi un po' di caratteristiche. Antonio, guarda come sta uscendo la radio adesso, che ho agganciato l'MB più 4. Era sbagliato lo schema come me lo stava tenendo, non ci riuscivo, allora ho fatto a modo mio stamattina. Alla prima l'ha già attaccato. E te credo, come sta uscendo? E cosa ripuoi qua? È già modificato. Ah, dal menu stai dicendo tu. No, Luca Cervite non entra in auto. No, questo è il WC però, altro. Ah, ecco. Perché c'è l'ingresso da dietro il connettore. Ah, non l'ho mai trovato. Basta. Mi hai deciso il gioco, sono indeciso. Capito. Cercano mai qualcuno che costa di meno. Lasciamo il calvetto. Ah, ecco il calvetto. Questo calvetto costa 25 euro. Mettete in culo un calvetto. Sono indeciso. Comunque l'acquisto l'ho già fatto, mi serve per tosare il cane. Devo tosare due cani, la macchinetta ho comprato. 40, quasi 50 euro l'ho pagato. Sono indeciso se prendere questo o quello analogico. Vabbè, pensate che non prenda colpi. Allora, quando mettono tutti liberi, vedrà che non c'entra più nessuno qua. E mi sa tanto di sì. Ma. Oh, è a minimo mi così quanto? Ah, così è. È proprio a minimo. Perché già lo sai che qua se no. E lo da Gussi andavero, ma tanto già mi intendi. Già ce l'ho, ma toccherebbe attaccarlo, questo, quell'altro. E prima faccio a toglierlo è meglio. Già lo da Gussi andavero. Va benissimo. No, volevo un bracchino, cazzo, insomma. Grazie di Dio, ecco. Ma tu quello bene lo sai. Ho capito. Vabbè, mettilo in marcia, dai, così lo sentiamo, vediamo un po' come va. Fallo sentire, cazzo, non ti devi mettere la cattola. Se lo devi tenere, lo devi usare, così magari lo sento e magari posso anche valutare. Come? Ho capito, ma lo volevo sentire come usciva. Allora, Pippo, come mi ha chiamato il corriere? Siccome arriva oggi la tana di Giuseppe, no? Mi ha chiamato, guardi che siamo, dove siete? Ho messo una via che è proprio, non sono proprio vicino a casa, no, da tutta l'altra parte. Eravamo in via d'oceano, a me non mi risulta, c'è un cancello, ma non mi risulta proprio, assolutamente. E mi ha detto che se gliela posso portare domani, mi ha detto, la posso portare domani, no, la voglio oggi, è in consegna oggi, ma la parte oggi. Infatti, Giuseppe è tornato e parla parecchio qua. Se non l'intese vuol dire piazzuta. Se non l'intese vuol dire piazzuta. Ma tu, dì la verità, ma è quel uomo, questo Luca? Ma mi sembra un po' troioso questo Luca. Fate l'assado, Bruno. Non la scena. Davvero. Ma è vero Luca? E Luca? Come sta la cosa? Stavo in baracchino in casa di Dio, cioè tutti graffiati, i due che ha smesso quella barca nuova, quello modificato, ma per carità. Non so, ma mai preso Antonio, cosa mi posso qua? Sto macinando. Luca, canto del custado. E cosa? Quello che hai preso. No, non ho preso niente. Mi sei di Zenni che l'hai preso modificato. Ah, sì, 200. Certo. Un 200 che c'ha un 140. Esagerato. Te lo dico io. Ma poi ti ho variato, tanto. Ho capito. E oggi non c'è niente da fare. No, nada. Sei libera. Ma gonfia sì. Ah, vero. va, mettici qua a piedi, aprite un fazzo. No, già mi ci fatto, io non avevo subito mi altro, io pure ingrassato, ho fatto bene grazie alla vetta, la parata la vetta, la sadda, ma poi fatti un più, Ma quella è la vecchiaia però me, lui. E è vero. Avevo avuto una casana, la sua 400, non avevo fatto io. Ah, tu sei con coma, non è che ne posso fare nulla. Beh, io con quello lì devo fare per forza, devo saltare per forza. Sinoso, ma ti immaginaggi, Antu? Cazzo, ammazza, accoltellate la moglie. E è vero. Ed è basso il microfono, mi Antu. Oh, che a tre, mi hanno detto abbassarlo che era troppo forte, che si intendia pure mia moglie da un chilometro lontano. Oh, quello vecchio è, quello nuovo non lo posso attaccare qua. Ehi, questo qui, mi aspetta, lo metto a metà. Riesci a vedere. Così a metà, guarda un po'. E mi hanno iniziato ad abbassarlo, che era troppo... cioè che si sente la gente lontano, e quindi a metà lo posso tenere. E vabbè, là, lo da così allora, se c'è da abbassarlo poi lo abbassiamo. Cioè tu mi stai dicendo che la modulazione va bene, ce l'avrò una quarantina di centimetri da 50. E lontano mi, cos'hai capito? Ehi, il microfono lontano, tu hai travisato quello che io dissi. Ehi cazzo, se lo frequenti allora diventi peggio di lui. Per quello è. 25 centimetri, non so se avendo l'idea. Allora tu, sei allora. Oh, ma è la macchinetta, non è l'antenna, ma comunque l'antenna è in consegna oggi, ma detto il tipo sono arrivati 5.000 pacchi oggi, e adesso me la consegna domani, comunque mi è arrivata la macchinetta bellina, ah, sta USB si ricarica, un'antenna di macchina, ma non è lui, non era lui, quello è l'attore. Perché bisogna capire molto, bisogna capire. Sai come è fatto Luca? Se si occupa uno, sei due allora. Allora fammi i denti. La barba si è fatto crescere adesso. Non ce l'ha più il pizzetto normale come prima. Adesso è più brutto. È vero. Se lo so che sono brutto, non c'è bisogno che lo dica la gente. Ma come è cavolo esce questo coso, buh? Luca, come cosa hai ordinato? L'antenna di macchina? No, non ho ordinato niente. Sembra carina, dice che resiste anche all'acqua. C'è la regolazione da 1 a 10. Cavolo, bella, Ma siamo tutti zio la giubagata. Che resistente all'acqua con boccale la maschera. Che si può comare mia, tanto. Adesso la provo, arrivo subito. Ti rubo un pareggio, ti vendo. A luna quello vuole andare a tosare, mi vedrà che la tosa. Sei bacino anche perché forse per il segnale pure. 9 arrivi qua. Anzi, 9 e 9 sta arrivando.